Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 31 gennaio 2015, le alghe entrano nel menù degli europei. Non solo sushi, ci sono le alghe verdi bretoni chiamate lattuga di mare per il loro aspetto simile all'insalata e per il fatto che sono commestibili. E ora anche la cucina mediterranea sta integrando nella preparazione di numerosi piatti diversi tipi di alghe coltivate. E questa è l'ultima svolta di un trend che ha visto crescere il ruolo delle alghe nell'alimentazione di tutto il mondo. La produzione di alghe sta crescendo e trova sempre più applicazioni, cibo, ma anche fertilizzante naturale e persino fonte di energia. Fin qui la notizia del 31 gennaio 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radice nel presente, in questo 2012. Nel caso delle alghe, anzi delle microalghe, le radici sono ancora più lontane nel tempo, perché già gli aztechi le consumavano. Vincenzo Fogliano, docente di chimica degli alimenti all'Università Federico II di Napoli e coordinatore del centro di acquacoltura CRIAC per la produzione di microalghe. La speranza del futuro sono soprattutto le microalghe, cioè organismi unicellulari che possono essere cresciuti con grandissima facilità, quindi con costi molto bassi, e che sono da un punto di vista alimentare molto diverse dalle macroalghe. Le macroalghe sono assimilabili a dei vegetali come composizione, quindi lei si può fare un'insalata di alghe e ha la stessa caratteristica di una lattuga, diciamo così. Ben diverso è il discorso delle microalghe. Le microalghe sono organismi unicellulari che hanno dei contenuti proteici molto molto alti. Lei arriva ad avere delle specie che fanno il 30, 40, 50% di proteine, molto meglio di una bistecca come contenuto proteico. Gli aztechi consumavano microalghe, quindi è una cosa che già esiste. Storicamente alcune popolazioni africane integrano la loro dieta con microalghe che crescono spontaneamente laddove ci sono le condizioni adatte, cioè acqua, possibilmente acqua un po' calda e luce. Diciamo, la possibilità è quella, coltivandole in condizioni diciamo ottimali, di proporle come un ingrediente per fortificare da un punto di vista proteico qualsiasi prodotto, ma principalmente le farine, cioè i prodotti cerealicoli. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.